L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Eccoci qua insieme a voi, questo è Darwin, ciao Chiara. Ciao Federico, ciao ascoltatori. A forma di pizza, proprio così, tonda e piatta. Così vedono la Terra i terrapiattisti. Ma in fondo è una buona ipotesi, tra l'altro la Terra piatta per lo sviluppo della bicicletta è perfetto. No, invece è incredibile come in un'era di viaggi spaziali, sonde e strumenti che ci permettono di esaminare il suolo marziano, ci sia ancora qualcuno che si ostini a pensare che la Terra sia piatta. E udite udite, i terrapiattisti sono in aumento. Vuoi per via dei social network, vuoi per la facilità con cui si diffondono adesso le fake news, ma purtroppo sono una realtà. Gianluca Ranzini, che non è un terrapiattista ma un astrofisico e grande divulgatore, si è preso la briga di capire meglio cosa frulla nella testa di questi terrapiattisti con un libro, perché dicono che la Terra è piatta. È il titolo del libro, edito da Centauria. Benvenuto, Ranzini. Ciao, grazie dell'invito. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Vogliamo iniziare a capire come vedono, o meglio, credono di vedere la Terra, i terrapiattisti, questo mistero? Ma la vedono appunto piatta, cioè non più o meno sferica come è nella realtà. Questa visione in realtà, diversamente da quello che molti pensano, non viene dall'antichità, perché gli antichi avevano ben chiaro che la Terra non fosse piatta. Tutto sommato il terrapiattismo moderno inizia nell'Ottocento grazie a un signore inglese tale Samuel Robotham, che a un certo punto ha cominciato a fare delle considerazioni ed è giunto alla conclusione che la Terra fosse piatta, cominciato a divulgare questa sua ipotesi che ha avuto una certa presa. Nel suo libro addirittura scrive che già nel terzo secolo avanti Cristo i greci dimostrarono, come dire, la sfericità, che poi non è una sfera perfetta, ma insomma approssimativamente. E allora quali sono le evidenze scientifiche che portano questi signori per dimostrare che la Terra è piatta? Sostanzialmente, ecco, la cosa interessante è che il terrapiattismo non evolve, cioè quello che ha detto questo signore nell'Ottocento sostanzialmente fa ancora testo, no? Un po' come Aristotele una volta, insomma. E le considerazioni principali forse sono due, cioè la prima è: io guardo l'orizzonte e mi appare piatto, quindi la Terra è piatta. Per esempio al mare, no? Guardo l'orizzonte del mare e mi sembra piatto. Oppure guardo le superfici delle acque di un lago o del mare stesso, eccetera, mi sembra piatto e quindi la Terra è piatta. Il fatto che le acque debbano incurvarsi per seguire la superficie terrestre, se questa è davvero sferica come è un ragionamento corretto, però i terrapiattisti, diciamo, con i loro esperimenti queste cose non le mettono in evidenza per una serie di ragioni, considerazioni strane. In realtà c'è una certa approssimazione nei loro esperimenti. Ovviamente molte cose non vengono neanche prese in considerazione, cioè appunto tutte le foto ormai a milioni che ci arrivano dallo spazio che ci mostrano la Terra, tutta una serie di altre cose di astronomia. In realtà per far funzionare il modello terrapiattista bisogna inventarsi delle ipotesi che magari per un certo punto, su un certo specifico fatto, ti possono dare una risposta sensata, ma però non per tutti gli altri. Ma scusi Ranzini, ma per loro l'Australia sta sotto, nella parte sotto del pavimento? No, non sta, se la Terra è piatta, la Terra, immaginate il mappamondo, viene spalmato su una sola superficie, cioè non c'è un sotto. Okay. Il Polo Nord sta al centro e quindi in questa visione, in sostanza, l'Antartide e il Polo Sud non è più un punto che sta dalla parte opposta del Polo Nord, ma viene spalmato sul bordo della circonferenza della Terra piatta. Quindi una delle cose che dicono i terrapiattisti è appunto che sul bordo della Terra c'è una muraglia di ghiaccio che di fatto corrisponde all'Antartide in qualunque direzione noi possiamo andare, e questa muraglia è invalicabile, poi ovviamente non si può avvicinare perché ci sono i poteri forti che lo impediscono, eccetera, eccetera. No, perché sennò sarebbe anche facilmente dimostrabile, cioè si va verso il bordo bordo e si fotografa la muraglia. Ma io ho incontrato anche qualche terapeutista, ho cercato di dirgli che ci sono delle persone che vanno in Antartide, per esempio, tanti ricercatori e anche qualche turista. La risposta è stata: no, ma non è vero, ti portano lì vicino, ti fanno vedere qualche pinguino e ti riportano indietro. Ma il giorno e la notte come la mettono? Dunque, il giorno e la notte funzionerebbero per un effetto di prospettiva, che però non è appunto ben chiaro come funzioni. Tra l'altro, il sole nella visione terrapiattista tradizionale sta sempre alla stessa distanza dalla Terra, cioè gira su un cerchio centrato sul polo nord e rimane quindi sempre alla stessa altezza rispetto alla superficie terrestre. Quindi a volte un po' più vicino a noi, a volte un po' più lontano. Quando è un po' più lontano, loro dicono: sembra che si abbassi. Sì, è vero che c'è un minimo di prospettiva, però le albe e i tramonti sono un'altra cosa. E appunto una cosa che si potrebbe verificare molto semplicemente è che, se fosse così, quando il sole è dalla parte del cerchio più vicina a noi, diciamo, dovrebbe apparire più grande di quanto appaia invece quando è dalla parte opposta della sua presunta orbita. Però questo non accade, perché le dimensioni angolari del sole sono sempre sostanzialmente le stesse. Lei è un astrofisico, non un sociologo, però possiamo provare a capire questo fenomeno del perché siano in aumento i terrapiattisti? Addirittura lei dice nel libro che nei paesi anglosassoni in particolare si pensa siano l'1 o il 2% della popolazione, il che ci fa un po' paura. Sì, e anche in Brasile, sembra che il Brasile sia una delle nazioni più terrapiattiste del mondo. Di fatto tutto questo rientra così in un complottismo a 360 gradi, cioè non esiste il terrapiattista e basta. I terrapiattisti credono un po' a tutto, cioè dalle scie chimiche, sono ovviamente Novax, ai giganti che hanno popolato la Terra, l'evoluzione terrestre darwiniana non esiste, gli aerei vanno ad aria compressa, è una ribellione alle istituzioni, al sapere codificato. Pensavo ieri appunto che le nazioni anglosassoni, il Brasile, che sono quelle più terrapiattiste, sono anche quelle che sono state più colpite dal Covid. Non so se c'entri, però diciamo che probabilmente c'è una certa propensione a pensare che certe cose o non esistono o non sono molto importanti o vanno affrontate in un altro modo. E anche forse una sfiducia nella scienza in generale. Una grandissima sfiducia, perché non c'è contraddittorio con i terrapiattisti, perché qualunque cosa gli dici: ma non l'hai visto le foto dallo spazio? Ma chi l'ha fatta? La NASA? Allora, cioè qualunque delle nostre fonti che consideriamo autorevoli, per loro è il demonio, quindi non va presa in considerazione. Va bene, grazie Gianluca Ranzini. Perché dicono che la Terra è piatta, edizioni Centauria. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Chiara, in questa trasmissione noi affrontiamo il tema del portare l'energia elettrica che è generata da pale eoliche che stanno sul mare e portarla a terra, insomma. C'è chi sta lavorando a questo progetto e non è per niente banale, come immaginerete. Ed è qui con noi Giovanni Indiveri, benvenuto. Grazie. Grazie molte dell'invito. Lei è docente di automatica all'Università di Genova e poi fa parte di questo consorzio ISME, che è un insieme di centri italiani collocati in varie università che fa ricerche sul mare, in particolare per esempio nella robotica marina. E con un gruppo di ricercatori lei sta proprio lavorando, c'è anche di mezzo un progetto europeo appena presentato, e sta portando avanti una serie di interventi proprio tecnologici che riguardano il portare a terra l'energia prodotta da pale eoliche, però in mezzo al mare. Quali sono i problemi? Esattamente, allora in realtà il progetto in specifico riguarda il monitoraggio e l'analisi di salute, diciamo, dei cavi che vengono usati per portare l'energia da queste infrastrutture verso terra. Queste infrastrutture sono collocate a varie profondità e a varie distanze dalla terraferma, specialmente nei mari del nord, dove c'è più disponibilità di vento, e poi dei cavi subacquei che sono interrati a qualche metro di profondità sottoterra, appunto, arrivano verso la terraferma, riemergono ancora sott'acqua, e quindi gli ultimi metri, diciamo, di solito sono percorsi con i cavi appoggiati al fondo marino, e dopo vengono collegati a delle centrali di gestione sulla terraferma e di lì poi instradati verso la rete elettrica. Ecco, Indiveri, siamo pieni di immagini di film thriller dove viene buttato il phone nella vasca da bagno, acqua, elettricità. Terrifica. Qui com'è che è tutto estremamente protetto? Cioè, intanto non è in acqua, le diceva, ma sono giù nel fondale a qualche metro, però poi a un certo momento vengono fuori, lì non c'è pericolo? Allora, diciamo che non c'è, proprio perché dal punto di vista dell'ingegneria e della messa a punto dei sistemi sono protetti in maniera adeguata. Quindi questi cavi sono ovviamente schermati, studiati appositamente per questo tipo di applicazione, e quindi se la manutenzione viene fatta in maniera regolare, diciamo, se non ci sono fenomeni di rottura, di erosione, di danneggiamento, diciamo, dei cavi, sono assolutamente sicuri. Forse dobbiamo fare anche una distinzione: questo eolico marino di cui lei ci sta parlando è appunto collegato con dei cavi al fondale, come ci diceva, quindi è relativamente, possiamo dire, vicino alla costa. Esiste anche un eolico invece, come dire, galleggiante, che può essere messo anche un pochino più a largo. In quel caso come si risolve il problema della distanza? In realtà la distanza di questi pali, diciamo, di questi generatori dalla costa sta crescendo negli anni. Nei primi 10 anni degli anni 2000, diciamo, la distanza dalla costa era sempre dell'ordine di qualche decina di chilometri, al massimo si arrivava a 20 chilometri, ma era già considerata una distanza, diciamo, importante. Dal 2010 in avanti questa distanza media è cresciuta in maniera abbastanza importante, e oggi ci sono anche piattaforme e, diciamo, infrastrutture anche oltre i 50 chilometri. La tecnologia poi di avere pale eventualmente non fissate al fondale, quelle che chiamano in inglese floating, cioè galleggianti, permette sicuramente di andare a distanze importanti, però, diciamo, non è esclusiva, nel senso che anche con la tecnologia classica tradizionale, quindi con il palo fissato, ancorato al fondale, si riescono comunque a raggiungere queste distanze. La tecnologia delle pale galleggianti è ancora un po' di nicchia, la percentuale, diciamo, di installazioni di quel tipo è molto bassa, credo inferiore all'1%, sta crescendo e ovviamente ha un suo interesse, perché dal punto di vista dell'installazione è molto più semplice. Certo, la possibilità di andare molto lontani, beh, è notevole, perché a quel punto il paesaggio, le coste, insomma, vengono preservate e non abbiamo pale eoliche che si stagliano su magari colline e insenature molto belle. Sì, confermo, questa è sicuramente una preoccupazione condivisibile da chiunque, a partire da chi si occupa proprio delle tecnologie, ci si rende conto perfettamente che questi sono problemi molto sentiti e oggettivamente concreti. La mia opinione personale è che in genere bisogna guardare il compromesso, no? Il fatto di poter generare energia pulita è di per sé stesso talmente vantaggioso rispetto al bruciare fonti fossili, che il problema dell'impatto ambientale, secondo la mia opinione personale, va un po' in secondo piano. Avere la possibilità di allontanarle dalla costa offre tutta una serie di vantaggi anche dal punto di vista dell'efficienza, perché i venti sono eventualmente più forti, quindi si riesce a sfruttare anche in maniera migliore la risorsa energetica primaria. Grazie, va bene, allora davvero buon lavoro, Indiveri. Grazie, grazie a voi e alla prossima. Beh, insomma, mi sa che per avere un po' di sostenibilità bisognerà anche adattarsi. Bisogna un po' adeguarsi e poi fare ovviamente delle scelte, come ogni cosa. Ciao Federico, ciao ascoltatori, ci sentiamo sempre qui per Darwin. Ciao! Ciao Chiara, un saluto a tutti e a tutte. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.